come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Ma anche davanti alla borsa di Milano ti metti a cantare Vippo Franco. È più forte di me. Ma chi c'è ancora davanti a quel luogo virtuale che è la borsa di Milano? Che devi avvertire i tuoi amici parasindacalisti, operaisti, protestatari di professione, che in realtà quel luogo là è un luogo virtuale, non c'è nulla dentro. Cioè non è come a New York che ci sono gli operatori, cioè non c'è niente in realtà, niente. Dunque tu Palazzo Mezzanotte. Sì, ma tutti i tuoi Tutti i tuoi amici là. Intanto bisogna avvertire il signor Castelli che deve lavorare di più. Te lo ricordi cosa disse da noi qualche giorno fa? Io ho lavorato ad agosto e adesso l'Italia raccoglie un po' di risultati, la borsa va meglio. Mi sa che oggi Nisba ha lavorato poco, evidentemente. È stato un po' troppo ottimista. Senti, ti faccio risentire intanto. Noi lombardi abbiamo imparato, almeno io ho imparato da mio padre, che prima il dovere e poi il piacere. Quando agosto ero qua, lo spread con i Bund tedeschi stava veleggiando verso i 400 punti, la borsa stava crollando. Ieri abbiamo piazzato un po' di bot a tassi interessanti e oggi la borsa è salita del 3%. Ti rendi conto o no? È un mito assoluto. Io sento un casino tremendo là intorno a te. No, ma adesso mi sposto, ma ho una notizia clamorosa da darti. Siamo in diretta su Radio 24. Ho a mio fianco il signor Riccardo Sternani, che è uno dei leader della protesta. E questa è la radio della Confindustria, signor Germani. Le passo il signor Cruciani così. Ma chi è questo signore che mi passi? Come chi è? È San Precario, è il leader dei precari. Buonasera Cruciani, ci conosciamo, l'ascolto io. Come andiamo? Che è andato a fare oggi là davanti? Scusi, a perdere tempo là davanti. Ma noi non perdiamo mai tempo, sono gli altri che perdono tempo, non sanno fare i conti e la borsa crolla, ma perché non riescono a fare una manovra decente. Ma allora, guardi che non è che c'è un rapporto sempre così stretto tra le due cose, l'avverto. E poi lei lo sa che è andato a protestare in un luogo dove non c'è praticamente nulla, sì? Beh, insomma, dentro c'erano un centinaio di lavoratori, operatori di borsa, comunque sia, che erano abbastanza preoccupati perché la notizia era rimbalzata un po' in tutte le borse europee. Per cui, insomma, ma c'è qualcuno che ha fatto una specie di irruzione oggi, centri sociali, incidenti, cose? No, una piccola irruzione, eravamo una decina. Una piccola irruzione, così. Piano. Una piccola irruzione. Non violenta, c'era Gandhi che fermava i treni. Per due ore la borsa non credo che sia una cosa. Mi risulta che non si sia fermata, però, dal punto di vista poi concreto. No, appunto, per cui Gandhi faceva più danni di noi. Ma lei che fa di mestiere? Scusi, com'è che la mattina alle 11 del 5 settembre si trova lì a protestare? Che è senza lavoro? Io sono un sindacalista. Ah, lei è un sindacalista, benissimo. Sì. Per cui lavoro per il sindacato USB e mi occupo di sanità in particolare. Va bene, mi ripassi il signor Parenzo, va, mi ripassi il signor Parenzo. Buona serata. Bisogna cancellare il debito. Sì, bisogna cancellare il debito, va benissimo. E non farlo pagare a chi lavora. Grazie. Prego. Buon lavoro. Grazie. Hai capito? Hai capito? Cose demagogiche. Non pagheremo più il debito. È ora. Potere. Stai fermo. Intanto veniamo a prenderti. Tutto il resto mi annoia terribilmente. Per esempio Alfano, no? Il famoso Alfano del nostro amico Bossi. Più tardi ci collegheremo, non adesso. Più tardi ci collegheremo. Sì. Il signor Alfano ha candidato Berlusconi anche nel 2013. Ma secondo me scherzava comunque. Dov'è la notizia? Senti. Io penso davvero che lui si ricandiderà per avere conferma dagli elettori di essere voluto dagli italiani alla guida dell'Italia e del nostro paese. La vicenda del Quirinale è una vicenda oggi anche... Troppe galline rispondono. Vabbè, questo è Alfano. Intanto ti voglio dare una notizia, caro Parenzo. Questa è sempre la Zanzara, 800 24 00 24, per chi non se ne fosse accorto, perché tra Pippo Franco, il signore sindacalista davanti alla borsa, fra poco un altro collegamento speciale con un protagonista della vita politica italiana, caro Parenzo. Parenzo collegato addirittura dalla borsa di Milano, non so per che cosa e per quale motivo, ma dopo ce lo spiegherà. E ti do una notizia fondamentale. Il signor Saverio Romano, il quale ministro Saverio Romano, ministro dell'agricoltura Saverio Romano, dice che lui farà un atto di generosità nei confronti dell'Italia. Un grande atto, un grande atto di, come, scusa? Cioè, dico, si dimetterà, non lo so. No. L'atto di generosità dovrebbe essere quello, però vabbè. In realtà distribuisce, cioè sparpaglia, come si dice? Sì, sì, no, mette sedi ovunque del PID. Sai cos'è il PID, no? PID. Io, popolo e territorio. Popolari per l'Italia di domani. Ah, di domani, sì, chiedo scusa. Non è popolari per l'Italia di oggi o di adesso, no, è popolari per l'Italia di domani. Aspettando l'Italia di domani, questo semina, questo signore, signor ministro, semina sedi in tutta Italia. Lo fa per fare un atto di generosità nei confronti del paese, perché... Ma questo sarebbe l'atto di generosità. Senti, lo dice lui. Senti. Ma è una cosa pazzesca, lo sai, no? Quello che stiamo facendo in questo momento è un atto di generosità. Stiamo procedendo alla organizzazione territoriale del nostro partito. Abbiamo una classe dirigente che oggi è diffusa in tutto il territorio nazionale, da Canicattì fino a Bergamo. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno. Hai capito? Sì, questo è il grande atto di generosità nei confronti dell'Italia. Posso dirti una cosa? Aprire sedi del PID ovunque. Beh, anch'io questa sera, dopo aver sentito questa cosa, mi sento decisamente meglio. Sì, penso di essere quello. Ottimista. Cioè, ho iniziato la trasmissione un po' depresso, devo dirti la verità. Sì. Questa cosa mi ha messo di buon umore. Cioè, sapere che esisteranno sedi del PID in tutta Italia, beh, è una cosa che risolverà molte questioni. Molte questioni. Peccato che la notizia sia stata data a borse chiuse, perché altrimenti probabilmente... Però c'è di molto peggio oggi. Per esempio, il ministro Calderoli, che è certamente più importante del ministro Romano, detto con tutto il rispetto del ministro Romano, per carità, ministro Calderoli, il quale dice, beh, sai, la questione delle pensioni di reversibilità, perché bisogna colpire queste pensioni di reversibilità? Perché, beh, in alcuni casi è colpa del Viagra. Come? No, sono serio, è colpa del Viagra. Calderoli. Io penso di togliere i soldi alle vedove. Quando trovo, e qui, ragazzi miei, è colpa veramente del Viagra, porca bestia, quello d'80 anni che si sposa la diciottenne extracomunitaria per le ultime ore di gioia della sua vita. Il giorno che la sposa, questa diventa cittadina italiana. Ma se quello si sposa una diciottenne, io quello gli pago la pensione dai 18 ai 90 anni e non ha contribuito di un euro, tranne che per le ultime ore di felicità del nonnetto. Non so se ti rendi conto. Ma non è un ragionamento così strampalato, in fondo. No, ma non è così. No, strampalato. Cioè, del nonnetto, com'è che ha detto? Perché contribuisco? Il nonnetto, però, bisognerebbe spiegare al signor Calderoli che la sessualità degli anziani è un fatto importante. Sì, vabbè, ma non mi pare un problema epocale, insomma, adesso francamente. No, neanche, non lo affronterei nel dettaglio. Ecco, no, però c'è ancora di peggio di Calderoli. Senti questa cosa qui. È arrabbiato per la questione degli yacht. A parte che si accorge adesso che esistono degli yacht dove forse, dentro i quali forse si annidano degli evasori, perché poi ormai è diventato anche questo una cosa ridicola. Cioè, ovunque ci sono gli yacht sembra che ci siano evasori in Italia. È una cosa pazzesca. Cioè, ovunque, l'altro giorno, pochi giorni fa, il Fatto Quotidiano ha mandato degli inviati nei porti d'Italia, quelli dove ci sono tutti gli yacht, no? E andavano lì a domandare: scusi, lei è suo lo yacht? E quello, naturalmente, uno non risponde, perché non è che bisogna rispondere per forza. allora là il sospetto, quello non risponde dalla barca. Beh, ma uno è costretto a rispondere chi sono, chi non sono, eccetera. Ma tanto abbiamo chiesto, no? Sì, ovunque ci sono gli yacht, ci sono evasori. Senti Calderoli che si accorge adesso dell'esistenza degli yacht in Italia, evidentemente. Però io di sapere il numero di barche che ci sono in porto a Porto Cervo o da qualunque altra parte e che risultano tutte di nulle tenenti, io ho l'orchiciclosi, ho le balle che mi girano ogni volta che vedo quelle cose lì. L'orchiciclosi, fantastica. Cercatemi medico, sul dizionario orchiciclosi. Voglio che qualcuno mi cerchi sul dizionario orchiciclosi. No, perché l'orchite. Signor Rizzo, lei che è Marco Rizzo, comunista. Marco Rizzo. Venga qui davanti alla porta, cosa fai? Buonasera, lei che è un uomo di cultura, certamente, ma sa che cos'è l'orchiciclosi? No, sapevo l'orchite. L'orchite. L'orchite, conoscevo l'orchite. L'orchiciclosi, no? Non direttamente. Ma Calderoli sembrava quasi Marco Rizzo, incazzato come una bestia per gli yacht. Capito dove siamo andati a finire? Che qui i leghisti si arrabbiano per gli yacht, eh? Credo che sia una cosa giusta, tra magari le cose non sbagliate sono state dette fino adesso. Lei è giusto arrabbiarsi per gli yacht? Non per gli yacht in generale, per il fatto che ci sia una sproporzione tra una ricchezza esposta e una evasione altrettanto alta. Poi non necessariamente magari il tizio che ha la barca è quello che evade, però certamente se si vedono il numero di barche di un certo livello. Cioè, se lei vede uno yacht, se lei vede uno yacht, un po' di sospetto ce l'ha subito lei. Lei che è comunista di quelli tosti. In linea di massima, se uno pensa alle barche di un certo genere, non certo le barchette che ci sono in giro per i nostri mari, magari con italiani a bordo e con bandiere che ne so, di Comodo o cose del genere, uno può pensare che ci sia qualcosa di simile. Non è detto che tutti siano, non è detto. Anche uno. Intanto cerchiamo di mettere bene in piedi il collegamento con il signor Rizzo. Signora Picella, buonasera. Buonasera. Come sta? Come sta? Tutto bene? Non c'è male, non c'è male. Dove sei? Picella, il maestro Picella. Proprio? Maestro Picella, maestro Marino Picella. Buonasera, in persona. Buonasera maestro, in persona? Eh sì, sì. In persona, in carne e ossa. Ma io mi inchino. Dove si trova? Dove si trova, maestro? Davanti alla borsa, venga qui a protestare con noi. Dove si trova? Non lo faccia. Dove si trova, maestro? Sono a Milano. A Milano? Sì. E venga la borsa, siamo qui davanti con i lavoratori. Ma che viene a fare la borsa? Deve lavorare. Sto lavorando, sì. Deve lavorare. Ma non è che lavora stasera a Sce Berlusconi, no? No. Quando è l'ultima volta che ha cantato per lui? Una settimana fa. Ah, una settimana fa? Sì. Ma è interessante questa cosa qui. Ma molto interessante. Ma c'era qualche festa? C'era qualche festa oppure era semplicemente... No, assolutamente no. Da soli, voi due? Un tête-à-tête. Ah, una cena di famiglia. Come l'ha trovato? Abbacchiato, un po' abbattuto, No, assolutamente no. Vabbè, se dice come tutte le altre volte. Se dice che era abbattuto, non è gli fa un torto. L'ho visto molto no, qualche volta che l'ho trovato abbattuto, l'ho pure detto, ma è un po' scavato però, un po' scavato questa dieta che sta facendo. Ah, perché sì, ha fatto questa dieta pesante, diciamo. Pesante, Però sta meglio, no? Beh, insomma, meglio, l'ho visto un po'... Come mai si sottopone? Un po' sciupatello. Un po' sciupatello, perché sarà una dieta abbastanza drastica, fatta solo di liquidi e di erbe, Liquidi? Tisanoreica, la mia famosa dieta tisane. Tisane. Però per qua. Una cosa pazzesca. Senta, Picella, ma adesso c'è il traffico, ma è vero o no che parla continuamente di questi soldi, 560 milioni, ma è incazzato nero per questa storia qua, ma è vero o no? Ma è molto arrabbiato, guardi, non si trattiene. Davanti a me non l'ha mai detto, probabile che l'abbia detto in altre occasioni, non so, chi è che non brucierebbe, voglio dire? Chi è che l'ha visti mai questi soldi? Io si figuri, proprio, non li vedrò, non li ho visti e non li vedrò mai. Amore, amore mio, mon amour, lo sai, non ti aspettavo proprio che... Eccoci qui, la Zanzara, 18:48, 800 24 00 24, tra Alfano che ricandida Berlusconi, tra Letta, Enrico Letta, che lancia anche il signor Profumo, hai letto, no, Parenzo? Come no, certo. Un banchiere per il Partito Democratico. Bersani contro De Magistris per quella storia del non poteva non sapere, addirittura lo chiama vigliacco, e poi il grande scontro epocale, Renzi-Bindi, no? Hai letto, sulla candidatura, sì. Quante legislature hai fatto? I due ormai non si sopportano, Vabbè. Questo è ce ne faremo una ragione. Ce ne faremo una ragione. Intanto l'orci, l'or, come si chiama? L'orchi, l'orchiciclosi viene a chi usa il triciclo sbagliando la sella su cui ti appoggi per pedalare. Capito? Beh, sarebbe il giramento di balle, come ha spiegato il ministro, sì, molto eloquentemente, diciamo. Più, no? O, più o meno è così. Più o meno noi è così. Avremmo detto giramento di balle. Lui, che è un medico stimato, sì, dice orchi. Sindrome da triciclo, sì, giramento di palle, insomma, questa è la realtà. Apicella, senta, sì, ma è vero che Berlusconi aveva scritto una canzone Andiamocene via già nel 2006? Lei, insomma, è venuto a conoscenza certamente attraverso i giornali di quella famosa frase detta durante, sì, l'intercettazione al signor Lavitola: vado, sì, via, sì, da questo paese di merda, le intercettazioni, le cose qua. Ma Berlusconi, beh, quello potrebbe essere uno sfogo personale, capita un po' a tutti, ma noi, che sia uno sfogo non c'è dubbio. Però voglio precisare che la canzone, sì, non è stata scritta nel 2006, ma bensì nel 2002 addirittura. Ah, addirittura nel 2002. Oh, sì, dopo qualche anno. Rettifica di Apicella, trapparenza, mobile, rettifica di Apicella. Beh, è clamoroso quando la musica è anticipatrice di eventi, di, ma scusi, nel 2002 ha vinto le elezioni Berlusconi, perché se ne domanda? No, ma la spiego, perché praticamente io ero un attimino arrabbiato con mia moglie per le solite discussioni quotidiane, per cui lui era un po' arrabbiato per cose sue, e dico: ma perché non facciamo un pezzo, andiamo via, andiamocene via, e da lì, scherzando così, è nato il pezzo che poi... Ma lui perché, diciamo, era veramente collegato a questo sfogo personale, ma non c'entra niente. Non c'entra, cioè, lui non era dunque nel 2006, dopo la sconfitta alle elezioni, eccetera, no, eccetera. Non c'entra niente. Ma che è del 2002 il pezzo? Il pezzo è del 2002. Scusi, Berlusconi, perché doveva essere? Cioè, era arrabbiato così per cose sue? Con la moglie per era cose sue, no? Io, ma ero più arrabbiato io con mia moglie, voglio dire, cioè, ma con mia moglie ci sto da 22 anni ormai, non era un litigio così pesante, voglio dire, ma quelle cose quotidiane che poi facciamo una canzone insieme, vi siete visti, facciamo una canzone insieme, no? Che meraviglia. Per cui io scherzando dissi: facciamo una canzone, andiamo via, e da lì Ma lui ogni tanto ce l'ha questa tentazione di scappare via, andarsene nelle sue ville, abbandonare tutti, lasciare, no? Ma guardi, io penso ce l'ha lui la tentazione, io penso che sia il contrario, perché lui ama molto l'Italia, per cui è la ragione per la quale è sceso in politica, per cui... Però, non penso che sia così. Ogni tanto torna fuori questa storia. Ma com'è che faceva questa canzone? So che lei è un po' restio adesso, però insomma l'ha sempre fatto. Com'è che faceva Andiamocene via? La canzone diceva: scappiamo via da tutti, lasciamoli così col naso in aria e afflitti. Andiamo via davvero, in un'isola lontana, in un altro emisfero. Beh, chiaro riferimento alla persecuzione giudiziaria. Non lo so, 2002 che c'era. Com'era la situazione? Senta, ma com'è che faceva invece la strofa, il ritornello, proprio un po' cantato, insomma, lei ce l'ha. Andiamo via davvero, in un'isola lontana, in un altro emisfero. Maestro Apicella. Maestro, sembra scritta in queste ore, in realtà. Sembra scritta in questi giorni. Lei per forza vuole che deve essere attuale. Ma sembra scritta in questi giorni, diciamo la verità. No, invece è stata scritta nel 2002. Ma scusi, andiamo via. Infatti, quando ho letto che era stata scritta sui giornali, che era stata scritta nel 2006, vi dico: vedi, non dicono mai una verità. Sì, giornalisti, senza offesa. Com'è? Mandiamo tutti a farsi benedire. Come fa quella parte là, invece, diciamo, cantata? Mandiamo tutti quanti a farsi benedire e non pensiamo ad altro che a vivere e ad amare. Come fa invece cantata questa parte? Mandiamo tutti quanti a farsi benedire e non pensiamo ad altro che a vivere e ad amare, tu ed io, verso il sole, verso il mare, eccetera eccetera. Io però non è riferito a lei e Berlusconi, cioè è un tutto sì, generico. E come no, tu e no, io perché chiunque. Si vanno ad amare loro due insieme, vabbè, ma che dici? Cioè, voglio dire, a quel punto ognuno fa fatti suoi. Ognuno fa fatti suoi, se ne va, abbandona tutto. Però mi dica la verità, Apicella. No, signor, il dottor Parenzo, non è come pensava lei, sia tranquillo. No, vabbè. Mi sono tranquillissimo. Cioè, scusi, sono liberale, quindi scusi, ma adesso, in questi di... giorni, signora Apicella, è venuta fuori la storia della generosità di Berlusconi, no? A proposito della vicenda Tarantini, eccetera, eccetera. Lei che lo conosce così bene, mi dica, ecco, mi faccia un esempio della grande generosità di Berlusconi. Insomma, e qui l'hanno dipinto come una sorta di bancomat. Ma lo sanno tutti ormai, cioè non è una cosa che devo dire io, la generosità di Berlusconi è... Ecco, nei suoi confronti, il più grande atto di generosità, qual è stato? Non dimentichiamo che Berlusconi manda di soldi anche a dei bambini poveri in Africa, per cui ogni anno ha un budget da mandare lì, per cui tante cose non si dicono poi... quello che agli altri sembra il marcio, ma non lo è. La beneficenza in realtà, no, come lei sa, non è che si proclama. No, c'è una differenza. Diciamo, non è che si proclama, però si proclamano poi certe beneficenze. Che, beneficenze, bisogna vedere se poi sono beneficenze. Che si fraintendono, sono semplici beneficenze. Tutto qua. Senta, Picella, ma c'è una differenza tra la beneficenza per i bambini in Africa, che è encomiabile, e la beneficenza di un signore che si chiama Tarantini, che però sarebbe indagato per ricatto. Cioè, è una beneficenza diversa. Comunque, per carità, adesso è indagato per ricatto, ma è indagato. Bisogna vedere se è un... Bisogna sempre vedere. Proprio, non c'è dubbio. Senta, signor Picella, ma a lei, per esempio, l'ultimo regalo che ha fatto Berlusconi qual è stato? A me l'ultimo regalo che ha fatto Berlusconi, mi regalò un orologio della Longines, che era Natale, mi pare. Adesso, insomma. Cioè, l'ultimo Natale. Sì, sì. Poi, insomma, c'è gente che 20.000 euro al mese, capisce? Ma che c'entra? 20.000 euro al mese è gente che ha bisogno di, come ha ben sentito nelle TV, ha bisogno di avviare l'attività, perché per cose che non so di preciso, pure lei quando sente queste cose, uno gli dà 20.000 euro al mese, non gli girano un po' le scatole, lei, o no? No, guardi, a me non mi girano le scatole, perché io, grazie a Dio, vivo con quel poco che guadagno, sto bene. Comunque, può darsi che si arriverà, non sono un venale, quello voglio dire. Si arriverà al punto descritto dalla canzone, com'è quella piccolissima strofa prima di chiudere, quella piccolissima strofa iniziale di andare via? Com'è che fa? Scappiamo via da tutti, lasciamoli così. E chissà, se sarà così. Siamo qui sempre in collegamento con David Parenzo, che oggi si trova in Piazza Affari a Milano, non per farsi gli affari suoi, ma per fare dei collegamenti con la 7. Io oggi non sono particolarmente in forma, però ci sono delle cose che mi mettono di buon umore. Una di queste, l'ho detto prima, ma voglio riproporvela, perché è una cosa che davvero mi mette di buon umore e mi fa sperare che il paese possa andare in una direzione corretta, in una direzione giusta, in una direzione di progresso, di civiltà, di ripresa, di economia che va bene. O sbaglio, Parenzo? Ma economia che va bene, insomma, qui c'è il paese. La famosa crescita. Dico, sono parole, quelle che ho sentito prima, che mi fanno davvero sperare. Mi fanno davvero sperare nel meglio. Ma qui, diciamo, non è esattamente un covo di liberali cresciuti alla scuola. Ma le parole, non hai capito bene. Le parole, oggi sei un po' distratto, lo capisco. Le parole che ho ascoltato prima sono le parole del ministro Romano. Ecco, sapere... che il Partito per l'Italia di domani, così si chiama, il PID, aprirà sedi in tutta Italia, e che questa roba qui è una sorta di atto di generosità nei confronti del paese. Beh, cari amici della Zanzara, questa cosa qui, no, mi solleva, adesso mi fa stare meglio. Questo tema a questi precari incazzati, vediamo come... Ecco, come, vai là e chiedi, voi conoscete il PID, i popolari per l'Italia di domani? Faccio solo per te le grandi inchieste di Parenzo in mezzo ai precari, chiedo solo per te. Sì, un attimo solo, prima risentiamo un attimo il signor Romano, ministro Romano. Il PID in tutta Italia è un atto di generosità. Quello che stiamo facendo in questo momento è un atto di generosità. Stiamo procedendo alla organizzazione territoriale del nostro partito, abbiamo una classe dirigente che oggi è diffusa in tutto il territorio nazionale, da Canicattì fino a Bergamo. Con tanti galli che cantano. Eh beh, hai sentito, no? Che dicono, che dicono là i precari che è intorno, ma del guarda, PID? Io sono qui con un esponente, uno che sta manifestando le unioni sindacali di base. Sì. Il fatto di sapere, lei è il dottore? No, io sono Bignamini Gianfranco, sì, responsabile nazionale dell'USB Sanità. Unione, vabbè, USB Sanità. Ecco, vabbè, no, ma vabbè, sapere che il PID del ministro Romano aprirà in tutta Italia delle sedi del suo movimento, la fa stare un po' meglio in una giornata di protesta come questa? No, come no? Peggio ancora. Ma come peggio no? Peggio ancora, occuperemo tutti quei posti lì perché no, questa gente va mandata a casa. Devono andare a casa, deve tornare il potere ai lavoratori per poter dare veramente uno stato sociale. Ma che vuol dire potere ai lavoratori? Che soffre tutti i giorni, che non arriva più alla seconda, sì, settimana, sì, è uno schifo, una vergogna. Beh, adesso la seconda non settimana non avremo più mediazione per niente, da oggi parte una lotta senza limiti. Attaccato il pipone, attaccato il pipone, attaccato il pipone, diceva. No, no, lotta da, era come 24. No? Attaccato il pipone operaista. Però come la radio della Confindustria, lei non mi pare propriamente di estrazione liberale, lei, cioè, no, io sono, non è un comunista, sono un comunista. Quindi non è cresciuto alla scuola di Milton Friedman, no, ad esempio. Io sono con un po' di Fonaie. Sono cresciuto con Ernesto Che Guevara della Serna. Ecco, c'è ancora Che Guevara, c'ha. Questo me l'ha regalato la figlia, la prima figlia del CE. Un po' datata però qui. È un po' datata, ma le sue idee non sono mai morte. Ottimo. Mai morte, mai morte, mai morte. Grazie, le grandi inchieste di Parenzo. Le occuperemo le sedi del PID. Attento, no, ministro Romano, occuperemo le sedi del PID. Questo è meraviglioso, Do sempre, no, però dire la verità, voglio dirlo anche ai nostri... Do sempre delle notizie, cioè, su questo non voglio transigere. Do sempre delle notizie. No, no, no, no, ci va bene ridere. Mi metti, hai migliorato la mia giornata con questo collegamento con questo comunista. Tienilo accanto a te, questo... Ma no, no, adesso non esageriamo. Ma tienilo accanto a te, voglio capire. Non è di scuola, della scuola di Chicago, però. Allora, ma chi se ne frega? Non è un alunno di Martino, di Antonio Martino. No, lui, su questo non c'è dubbio. I titoli del TG3. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Bellinguer. La manovra non piace ai mercati, crolla la borsa, le stelle e differenziale tra i BTP e Bund tedeschi, Moody's e Rating Italia sotto osservazione, allarme Draghi, non scontato il sostegno della Banca Centrale Europea ai titoli pubblici italiani, Trichet sanzioni ai paesi che superano i limiti di debito. La maggioranza accelera sulla manovra, vertice tra Tremonti e Bossi, il ministro a Roma riunisce lo staff, il PD tempi stretti ma no alla fiducia. Domani lo sciopero della CGIL contro la manovra, la norma sui licenziamenti va stralciata, dice Bersani, domani in piazza anche noi. È uscita dal carcere Kate, la ragazza nigeriana che si è espulsa rischia la lapidazione nel suo paese, appelli perché le venga concesso l'asilo. Primi test da missione alle facoltà a numero chiuso, per medicina boom di aspiranti dottori, 90.000 studenti per meno di 10.000 posti. Leghe e associazione cacciatori hanno finalmente raggiunto l'accordo, la Serie A inizia della seconda giornata, venerdì sera l'anticipo Milan-Lazio. Del collegamento, del solito collegamento con la Villa Reale di Monza, dove fra poco cercheremo, come al solito, di metterci in contatto con il ministro Bossi, voglio farvi risentire la questione dell'orchiciclosi. L'orchiciclosi che ha preso il ministro Calderoli quando ha visto o quando vede tutti quegli yacht, gli yacht degli evasori. Però io di sapere il numero di barche che ci sono in porto a Porto Cervo o da qualunque altra parte e che risultano tutte di nulle tenenti, io ho l'orchiciclosi, cioè ho le balle che mi girano ogni volta che vedo quelle cose lì. Capito? E vabbè, è così, è così, è così. È così. Vabbè, come dargli torto su questo? Questo però basterebbe, guarda, veramente. Credo, ma ha scoperto adesso? Ma l'ha, infatti l'ha scoperto adesso ed è strano. Aspetta un attimo. Collegamento con la Villa Reale di Monza. Speriamo che risponda. Bossi? Ti conviene chiamare e far riprovare perché secondo me tra qualche minuto magari. Sentiamo? Telefoniche. Vabbè, niente. Staccato. Staccato. Riprova tra un po', magari, perché secondo me impegna. Prova. Riprova un attimo, eh. Vabbè, riprova Giuseppe da Treviso, prova. Intanto, Giuseppe da Treviso. Sì, Giuseppe, poi riprova, che magari... Sì, buonasera. Dica. Io ripropongo il testo sulla droga per deputati e senatori dopo quello che ha detto il ministro Romano. Che ha detto il ministro Romano? Beh, in fin dei conti ha fatto propaganda al suo partito, non è che ha fatto granché. No, quelle in questo momento sono frasi di una persona malata. No, non esageriamo. C'è solo da controllare se è malato. Malato per una malattia, sì, oppure sotto effetto di qualche droga. Vabbè, però lei mi sta esagerando. No, caro. Perché le appare malato il ministro Romano? Ha semplicemente detto che vuole fare delle sedi di un partito in tutta Italia. In questo momento uno con il suo curriculum vitae, sì, che si permette di dire queste cose, o è malato, sì, e quindi va aiutato da un psicologo, da un psicologo, oppure gli dobbiamo mandare Giovanardi che gli rifà il test sulla droga. Come lotta Giuseppe da Treviso, caro Parenzo. Mamma mia. Gli mandiamo Giovanardi. Cioè, lei che cos'è che ha colpito di questo intervento, direi epocale, peraltro, del ministro Romano? È fuori del mondo sto personaggio qua. Ma perché, scusi? Semplicemente è un ministro che è a capo del PID, del Partito per l'Italia dei Popolari. Scusi, ma questo Popolari. Qua. È sulla punta del Titanic e la nave è per il 90% affondata. Per dire queste cose qua, sta gente deve essere veramente in grossa difficoltà psicologica, oppure su perfetto di droga. Magari ha una droga al limoncello, magari una droga all'arancio, non so, in Sicilia ci saranno cose un po' particolari forse, no? Che ne so. Cosa dice? Non lo so, caro Giuseppe, cosa vuole che le dica? Io chiamerei Giovanardi qua. Lei non è interessato al PID, il partito, i popolari? Viva i comunisti, e domani c'è lo sciopero. No, che vive i comunisti, ma che sta scherzando? Un attimo solo, Villa Reale di Monza. Bossi? Ecco, finalmente. Radio Padania, buonasera. Abbiamo fatto federalismo fiscale. Ma che c'entra Radio Padania? Radio 24? Dai zitto, Crociati, diamo tanti di guerra gli altri. Oggi è stata una giornata terribile, un momento terribile per l'Italia tutta, la prima volta che dico la parola Italia, o in particolare anche per la Padania. Che è successo? La cosa, lei non ha visto le agenzie, perché è un cretino, deve rivelare un terrore, messo lì a Milano, hanno messo un terrore, signora Marcegaglia a lavorare a Milano. E per non leggere anche le notizie ci vorrebbe signor Renzo Borsi lì a dirigere quella radio, ci ha parlato con Tamburini. Però a parte questo, oggi è successo un fatto terribile. Che è successo? Che è successo? Dai zitto, cretino, che coglione, che ti veniamo a legnare subito con la guardia padana. È successo un fatto scandaloso, ce la faccio neanche a parlare. Che è successo? È sparito il cane del ministro Brambilla. Come fatto? Oddio, abbiamo è vero. Il cane del ministro Brambilla, che si chiama Cartier, è sparito oggi. Scusi, che gliela frega a lei? No, dai, vedi che sei un cretino. Proprio ci vuole. Quando i meridionali vengono al nord, devono integrarsi. Non ti sei integrato, capisci niente. Ti legniamo. È solo una cosa che abbiamo convocato il Senato Padano oggi. Il Senato Padano si è riunito d'urgenza perché è scomparso il cane della Brambilla, è scomparso una tragedia unica. Scusi, ma... abbiamo mandato le guardie padane, i forestali di Alemanno che sono venuti su per fortuna da Roma, i forestali di Alemanno, a cercare il cane del ministro, il cane disperato. Il cane forse è contento, mi ha dato via dal ministro, però il ministro è disperato proprio. Sta cercando, allora faccio un appello qui da Radio Padania Libera. Ma non è Radio Padania Libera. Stai zitto che ti mandiamo via a Napoli, ti mandiamo a fare la tua aia. L'avete trovato. Dov'è? Il cane della Brambilla. Torna a casa. Scusi, ma si chiama Cartier. Torna a casa Cartier. Certo, è un cane di lusso, è il cane del ministro del turismo, è sparito. Abbiamo messo anche una taglia. Vabbè. Per tutti coloro che lo ritrovano. Cioè, questo è il fatto. Il fatto del giorno è questo. Ma che c'entra Marcegaglia col cane? Stai zitto, che ho già parlato anche con il direttore della radio, signor Tamburini, d'accordo, bisogna cambiare il palinsesto della radio per il cane della Brambilla. Abbiamo già parlato. Sono già dai zitto, o ti adegui o ti legniamo. Comunque ti legniamo, Crociati, perché sei proprio di Roma. Sei di Roma. Ho capito, vabbè. Non hai Ministro, acquari, ci sentiamo. Se lei è sempre lì nella villa di Monza, ci sentiamo più avanti. Sono qui con la task force di Calderoni, tutti a cercare. Tutti, anche Giorgetti, tutti si sono venuti. Anche Flavio Tosi è venuto su da Verona. Salvini ha lasciato l'Europa per il cane della Brambilla. Un appello, Radio 24, Marcegaglia, Renzo Bossi alla direzione della radio. Che c'entra adesso Renzo Bossi? Dai, zitto! Cioè, ti legniamo, ti legniamo, è finita. Bruno, per te è finita, è finita. Ho capito. È una cosa seria però, eh. Ricerche ovunque, anche con detective privati, con una task force di Cartier, che non è un orologio, bensì uno dei cani della signora Brambilla. È il cane della Rossa, fai poco il cretino, sai. Rossi, lei è ancora in collegamento, ma senta, senta la radio, senta la radio. È il cane della Rossa, parlando già con tamburini per mezzo bossi, stai attento. Hai le ore contate, Cruciani. Ma che c'entra? Vabbè, comunque, è sempre in collegamento. Toglietemi questo collegamento con Bossi per il momento. Il cane scomparso arriva a studio aperto. Collegamento addirittura a studio aperto di oggi da Calolzio Corte. Senti, senti, Parenzo. Calolzio Corte, in provincia di Lecco, è tappezzata di biglietti. Si cerca il cane Cartier, che è scappato, ed è il cane del ministro Brambilla. Viviana Dintrono in collegamento. Esattamente, una vera e propria task force per cercare Cartier, il meticcio di Michela Vittoria Brambilla, ministro del turismo, scomparso due giorni fa dalla sua villa a Lecco. L'unità di emergenza è composta da due detective professionisti, decine di volontari e impegni istituzionali permettendo dalla stessa Brambilla. Il timore del ministro è che l'amata cagnolina di 7 anni possa essere vittima delle rappresaglie dei cacciatori dopo le sue crociate contro la caccia. Solo pochi giorni fa, infatti, il 1° settembre, è scattata la preapertura della stagione venatoria. Addirittura i cacciatori minacciano Cartier. È tutto vero, eh? È tutto vero. Sì, poi dicono sono i soliti ploi della zanzara. No, cioè è così. È tutto vero, è tutto vero. Leggete anche Repubblica oggi, il nostro collega Paolo Berizzi ha scritto un pezzo strepitoso sulla vicenda. Sparisce il cane della Brambilla e lei ingaggia una squadra di detective. Però io devo dire la verità. Qual è? Aspetta, aspetta, vogliamo novità su questa vicenda. Con chi vuoi parlare? Sono i numeri che sono a disposizione per... Per se uno avesse notizie sul cane della Brambilla, noi ci intromettiamo. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera, senta, vogliamo sapere, siamo qui da Radio 24, vogliamo sapere se c'è una novità sulla... su Cartier. No, non ci sono novità, non è stata ancora trovata. Non è stata trovata, No, beh, avete ricevuto però segnalazioni, cose. Guardi, abbiamo ricevuto tante segnalazioni. Oggi sono stati trovati 8 cani che sono stati recuperati. Però il nostro cane non è stato sentito. Niente, senta, ma qual è la difficoltà? Ma che ipotesi si fanno? Che ipotesi si fanno? Guardi, vorrei finire qua la telefonata. Ma non, è mica, non è il mistero della... scusi, non è mica il... non è una telefonata compromettente, cioè per capire qual è la difficoltà. Non è una telefonata compromettente, ma sono libero di non poter, di volerle non rispondere. Beh, non, è, non è il segreto di Fatima però, Cioè, una cosa pazzesca, cioè. No, ho chiesto solo, maestro, chiedo scusa, ho chiesto solo che ipotesi si fanno, cioè... Vabbè, ma noi siamo molto vicini al ministro Brambilla, però adesso stiamo scherzando, ma naturalmente... Sì, ovviamente, sì, è solo una battuta, ministro, lei, sappiamo che lei comunque il senso dell'umorismo ce l'ha. No, non solo, ma tiene molto agli animali, eccetera. No, questo non per c'è dubbio. È tutto vero, cioè, tutta questa... questi cartelli, poi addirittura qualcuno vuole fare delle multe, questi manifesti ovunque, è perché c'è un grande amore per gli animali, questa grande mobilitazione per cercare Cartier. Poi però una domandina sul perché uno chiama il cane Cartier la vorrei fare. Sì, vabbè, questo però, scusami, sono affari uno suoi. Sarà libero sì. Uno di chiamare il cane come gli pare. Anche questo è vero. C'è chi lo chiama Che Guevara, magari, no? Fra poco chiederemo spiegazione ad un altro ministro. Ad un altro ministro della Repubblica su questa cosa. Cioè, stai scomodando tutto il governo per la vicenda di Cartier, praticamente. Piero dalla provincia di Milano, 800 24 00 24. Questa è la zanzara. Normalmente il paese è in trepidazione per questa vicenda di Cartier. Piero. Buonasera, Cruciani, parla Piero dalla provincia di Milano. Prego. Senta, io volevo via etere, utilizzando la sua radio che sento sempre, voler trasferire al nostro ministro leghista, che si preoccupa di tutti i yacht che vede d'estate, ritorna abbronzato in televisione come tanti suoi colleghi, se sapesse a quanti milioni di italiani gli girano le scatole vedendolo ferneticare con queste... Ah, beh, lei dice, a lui girano le balle, diciamo esatto, così, guardando gli yacht... A quanti milioni di italiani ritornando dalle ferie, oppure che non possono essere stati in fiere, vedendolo abbronzato, io non so se va... al solarium. Ma uno può andare pure in montagna, no? In montagna. Ecco, ecco, sì. Ma dalla montagna vede tutti questi yacht e gli girano le balle. E lui e i suoi colleghi. E se sapesse quanti milioni di italiani gli girano le balle appena li vedono in televisione, questi signori. Oppure mentre sente parlare Calderoli. Oppure dice mentre sente parlare. Soprattutto Calderoli e qualche altro suo collega. Bene, grazie. Bruno dalla provincia di Bologna. Buonasera. Sì. Dottor Cruciani, buonasera. Sì. Tanti complimenti per lei e alla radio. Sì, non c'è bisogno, vada avanti. Va bene. Comunque, volevo dirle che mi ha preceduto, perché io nei miei appunti, sperando sempre di prendere la linea, avevo messo come primo punto questo pseudo TG che va in onda a mezzogiorno e mezzo su Italia 1. No, è un telegiornale, adesso è un telegiornale. È uno pseudo. Pseudo, è un telegiornale, abbia pazienza, un telegiornale. Sono libero di dare anche notizie così. Ogni no? telegiornale è libero di fare quello che vuole, caro Bruno, di dare le notizie che vuole. Sì. Ogni telegiornale, come dire, ritaglia una fetta del suo mercato. Ma poi l'ha fatto anche Repubblica, scusami. Sì, appunto, è un articolo. Se cioè, Repubblica può scrivere del cane del ministro e Italia 1 non può farlo, ma che discorsi sono? No, Repubblica. No, ok, va bene. Il giornale di Eugenio Scalfari, ma lei si rende conto cosa? Lei sta insultando Scalfari in questo momento, si rende conto o no? No, diciamo che il collegamento del giornale di Studio Aperto e il servizio di Repubblica, che chiaramente ha un titolo, lei ingaggia una squadra di detective, sono due cose diverse, ma comunque è vero, cioè, comunque è una notizia che suscita un po' di... è riuscito a dire che io insultavo Scalfari, poi va benissimo. Ma no, ma insomma... No, allora? No, però la questione principale che io volevo dire è che lei ha intrapreso una strada giusta nel parlare con Apicella e promuovere la partenza definitiva di Berlusconi verso un'isola più lontano possibile, dove si può portare chi vuole. Sì. Però questa è scontata, cioè, sì, caro Bruno, è un po' scontata. È scontata, però non le parla un elettore di sinistra. Quindi, secondo me, non è tanto scontata, perché veramente non se ne può. Cioè, lei dice, da elettore di destra, non vede l'ora che questo governo tiri le cuoia. Va bene, grazie. Andiamo a Novara da Mirko. A Novara da Mirko, buonasera. Sì, buonasera. Allora, volevo fare un commento su Calderoli. Io più che alla guida del paese lo vedrei bene alla guida del triciclo che dicevate prima nella descrizione. Alla guida del? Del suo triciclo. Ah, del triciclo. Esatto, come diceva prima della descrizione. Comunque, niente. Ma alla guida del governo non c'è, fa il ministro, le voglio segnalare. Comunque lo vediamo lì in prima linea nel tentativo di combinare qualcosa per la manovra, insomma, con risultati fino a deludenti. Così, secondo me, si è tenuto un po' in giro tra i vari Calderoli, Brambilla, chi più ne ha più ne metta. Forse è meglio che cambiano tutti i mestieri e che lasciano, insomma, fare a qualcun altro. Questo è quello che penso io. Bene, grazie. Amore, amore mio, mon amour. O sai, non ti aspettavo. E sulle note di Mariana Picella, prima nostro ospite, che ci ha cantato, anche se brevemente, alcuni passi della canzone composta con Berlusconi nel 2002 e non nel 2006. Caro Parenzo, scoop della zanzara. Momento epocale che risentiamo. Andiamo via davvero, in un'isola lontana, in un altro emisfero. Ma andiamo tutti quanti a farsi benedire e non pensiamo ad altro che a vivere, ad amare, tu ed io, verso il sole, verso il mare. Amore, amore mio. Momenti importanti, momenti importanti. Momenti che ci risollevano da queste giornate un po' complicate di ritorno dalle ferie e soprattutto giornate complicate per l'economia. Cosa volevo farvi ascoltare? No, forse nulla. Tanto la piazza si riempie. La piazza, Fari. Quale piazza? Piazza Fari. Non c'è più borsa. Nessuno. Che stanno facendo lì? Non c'è più nessuno. No, stanno montando festiccioni, bandiere. Tutti i colleghi stanno preparando per la diretta di tra poco. Che avverrà tra poco. Un altro Calderoli, però, ti offro un altro. Perché non mi porti un altro comunista là accanto? Uno di questi qua, il signore di prima. Portami un comunista accanto, no? Vuoi un comunista? Senti questo di Calderoli, scusa, i politici cercano di investirmi, questa è buona, senti. Guardate che io quando attraverso anche sulle strisce pedonali guardo a destra e a sinistra, ma perché non ho paura del pirata della strada, ho paura che ci sia in giro un politico che mi metta sotto, perché anche stando all'opposizione lo stipendio dei parlamentari l'ho bloccato 5 anni fa, prima la Camera e poi il Senato, gli ho messo una normettina nel regolamento per cui se non partecipano almeno al 30% delle votazioni perdono 300 euro al giorno. Sono terrorizzati alla Camera dei Deputati, sono terrorizzati in Parlamento dall'iniziativa di Calderoli. Sono tornato dal mio amico sindacalista di prima. Sì, dammelo un attimo, signor Comune. Te lo passo, aspetta un attimo, aspetta un secondo. La vuole Cruciani? Buongiorno, buonasera. Buonasera, che farebbe lei al signor Calderoli? Io signor Calderoli le farei, no, non sprecherei troppe energie, però gli vorrei spiegare che chi non ha memoria non ha futuro. E beh, che c'entra la memoria? Certo, una memoria storica, non si può essere razzisti e poi e tutto quello che dice la Lega che fa un attacco al sociale, perché tagliando comuni si attacca al mondo sociale, ci saranno meno interventi per i pensionati, per i portatori d'handicap. Comunque io Calderoli mi piacerebbe trovarlo, quello Spavaldo lì, mi piacerebbe trovarlo per solo fargli capire che l'Italia è un'Italia diversa, non l'Italia che pensa lui. Vabbè. Grazie. Intanto Penati è stato sospeso dal Partito Democratico e lui reagisce subito: mi ero autosospeso senza attendere il partito, cioè come a dire si sono riuniti ma non è servito assolutamente a nulla, comunque non serviva a niente perché già mi ero autosospeso. Bene, 800 24 00 24, senti un po' chi c'è, ritroviamo un nostro caro amico. Sei Parenzo, Parenzo, un attimo solo, che c'è un amico qua. Parenzo? Sì, no, stavo cercando altri manifestanti. Aspetta, fermo. Gianfranco Rotondi, buonasera. Buonasera, salve. Come andiamo? Beh, oggi non andiamo proprio alla grande. Che è successo, ministro Rotondi? Beh, sa, è un giorno che per chi è stato democristiano è un po' triste, non trova. Perché? Che è successo? E oggi abbiamo perso Martinazzoli. Ah, vabbè, sì, da questo punto di vista. Il partito, tutti lo hanno ricordato e anche... Una trasmissione che non è mai malinconica, vorrei introdurre un elemento di tristezza che magari sarà comune a molti italiani. Per carità, assolutamente. Anche se poi si diceva una volta che Martinazzoli era stato il killer della Democrazia Cristiana. No, tutto sbagliato. Quando un ammalato, come dire, esce sano dall'ospedale, si dice sempre che le cose sono andate bene, se esce nella bara si dice che è colpa del medico e quindi vale anche per i partiti politici. Lui è stato un medico, discorso un po' macabro oggi, devo dire la verità, ha fatto il possibile, ma è andata così. Voglio però dire che mentre tutti lo ricordano come una persona triste, penso ad esempio, sono sicuro che vi avrà ascoltato qualche volta, perché al contrario di quel che si pensa era una persona dotata di grande senso dell'ironia, di grande simpatia e anche di autoironia. Diciamo che non la esternava in pubblico, diciamo la verità. A frequentarlo direi in pubblico, in pubblico. Anche nella frequentazione pubblica era senz'altro un oratore particolarmente capace di tenere botta, come si dice oggi. Senta, altri teatri e altri tempi, trame, certamente. Altre trame e vorrei aggiungere altri attori. Altri attori, lei lo dice, si stava meglio quando si stava peggio? Beh, sa, per chi ha rifondato a suo tempo la DC è abbastanza semplice ritrovarsi in questo suo motto. Senti Parenzo, che succede là? No, qui sale la tensione. Sale la tensione. Ma quale tensione? Quale tensione? Non c'è nessuno lì a Piazza Affari. Ma un minimo di brip. No, ma non c'è nessuno a Piazza Affari. Ci sono le tende, ci saranno un centinaio di manifestanti. No, ma non c'è nessuno lì proprio a Piazza Affari. C'è proprio una cosa simbolica. Non è che c'è gente lì, non è che c'è l'assedio a Piazza Affari. Ho capito, ma voglio dire, è il fatto di protestare contro un simbolo del potere, della finanza. Le manifestazioni, voglio dire, è chiaro che è un simbolo, come il dito di Cattelan che c'è qui, è presente il dito di Cattelan davanti alla borsa, è un simbolo, no? Bellissimo, icastico nella sua potenza, il simbolo di che il dito di Cattelan. È una manifestazione artistica quella di Cattelan. Io quando sento odore di manifestazioni mi viene l'orticaria, per cui manifestazioni, scioperi. Però it's a democracy. Lo so, it's amico a democracy. Mio, fattene una ragione, è la democrazia, bello, le bandiere in piazza, gli striscioni. Lei anche Benedetto Cruz. Come, scusi, ministro? Dico, ho sentito la sua opinione sulle manifestazioni. Sì. E per non farla regredire a reazionario, la voglio consolare dicendo che come lei la pensava Benedetto Croce, che diceva una cosa che posso dirle solo come la diceva lui, assolutamente, e come me l'hanno raccontata, cioè in napoletano. Dica. Gli chiesero come mai il suo partito, che era il Partito Liberale, non era un partito di massa. Sì. E lui rispose: perché masse, quando sono masse, sono sempre masse fetienti. Eh beh, beh, beh, questa, ma è anche il suo motto, diciamo la verità, Rotondi, o no? No, io ho sempre militato in partiti di massa, quindi tra i fedenti ci sono stato abbastanza. Però oggi lo fa proprio questo motto, sì. Ma sa, è un motto liberale, nel senso che nella idea di massa che dà l'assalto c'è sempre l'eroismo e l'idealismo dei pochi che sì, la raccolgono, ma spesso l'opportunismo dei molti che si associano. Penso che Croce volesse dire questo. Eh beh, qui con le citazioni del ministro Rotondi, caro Parenzo, ci facciamo intere trasmissioni. Intere si può riempire l'enciclopedia di Wikipedia. Senta, signor Rotondi, io voglio capire una cosa. Come giudica queste esternazioni continue ormai da qualche mese del signor Formigoni? Che insomma ha tutta l'intenzione di voler sostituire Berlusconi. C'è io trovo che in democrazia sia abbastanza legittimo che uno vuol prendere il posto dell'altro purché ci sia il consenso, e probabilmente Formigoni parla molto per far conoscere il suo pensiero, le sue intenzioni. Ma la caratura, il physique du rôle per fare leader. La regione Lombardia è quanto la Svezia, quindi lui è già governatore di uno stato europeo e credo che abbia tutti i titoli per allargare il suo territorio di comando, no? Ma nel suo sud del ministro Rotondi, Formigoni voti ce li ha oppure no? Lo chiede a me, che sono un uomo nel sud che è stato eletto a Milano nella lista Formigoni. Io già lo riassumo, no? No, ho capito, però voglio dire, in prospettiva futura, tra Alfano e Formigoni, chi vede meglio piazzato? Berlusconi. Ancora con Berlusconi? Lo ha detto Alfano. E beh, ho capito, ma... Ma sa cos'è? Che questo paese parla tanto di voler cambiare, ma è un paese unico al mondo. Lei pensi che oggi tutti dicono, ma 20 anni fa si fa il giochino che pensano essere un'invenzione giornalistica nuova, invece è vecchio come il cucco. Dicono 20 anni fa in Inghilterra c'era Tizio, in Germania c'era Kohl, in Francia Chirac, e qui c'erano Berlusconi e Bossi, e 20 anni dopo ancora loro. Ma questo si diceva anche nella DC. Nei congressi gli sfigati come me, sfidando i De Mita, i Gava, gli Andreotti, tiravano fuori i giornali di 20 anni prima, dove c'erano i titoli su De Mita, Gava e Andreotti. Vabbè, non è confortante. Intendiamoci bene, starebbero ancora lì. Se parte non se li fosse chiamati il Signore e parte non li avesse sciolti Martinazzoli, per tornare come abbiamo cominciato. La politica italiana adora la continuità. Però nel 2013, caro... Non mi dica che Berlusconi è ancora candidato, ma no, ma non sarà così. Su, anche lei lo sa. Ecco, distingo. Probabilmente Berlusconi non sarà candidato, perché non vorrà farlo lui. Ma la sua opinione non coinciderà con quella degli italiani, che per un quarto d'ora diranno finalmente si è tolto dalle scatole, e dopo un quarto d'ora diranno però quando c'era lui, caro lei. Ah beh, capito Parenzo, qual è la teoria? La teoria è questa, cioè... La teoria sì, ha una sua razza effettivamente. Cioè gli italiani dicono adesso meno male che ce lo siamo tolti dalle scatole, e dopo lo rimpiangeranno, giusto? Ma nel caso di Berlusconi dopo significa un quarto d'ora dopo. Un quarto d'ora dopo lo rimpiangeranno. Ma le posso fare l'elenco. Fare l'elenco dei disperati, insomma. Cioè? Allora, cominciamo da alcuni giornali. Lei può immaginare Il Fatto, Repubblica, purtroppo anche qualche altra testata. Sì, che senza Berlusconi che fanno? Che scrivono? Scrivono di me. E che fanno non dopo? Non credo che abbiano. Eh beh, insomma, sarà dura la vita. Calano gli abbonati, le pubblicità, i commenti sulle chat. È un disastro, lo dicono stesso loro. Quelli intellettualmente più onesti lo dicono. Speriamo che tenga ancora un po'. C'è ancora per molto. E poi ci sono la sinistra che si è costruita su di lui, che ci campa sopra, che non avrebbe niente più da dire, perché loro sì sono gli stessi di quando andavano a fare la scuola di partito comunista a Mosca e si arrabbiano se li chiami comunisti, come se io mi arrabbiassi se voi mi chiamate democristiano. Io ne sono orgoglioso. Senta, però mi sono... vallo a dire a D'Alema, comunista. Però scusi un attimo, ti mangia, per... mi fa chiudere la zanzara, mi morde lui. No, è il caso di un politico che morde la zanzara. Senta, Rotondi, scusi un attimo, però... Però detto questo, insomma, mi pare l'uomo molto indebolito. Lei, per esempio, che è una persona che viene dalla scuola della Democrazia Cristiana, starebbe mai al telefono con il signor Lavitola o con il signor Tarantini? Guardi, nessun problema al telefono, un politico democratico sta con tutti. Non beh, è insomma, che, però il signor Lavitola, il signor Tarantini... No, no, posso dirle una cosa, non è la frase rituale, retorica, lei sa che io la retorica non la frequento. Ma io ho realmente fiducia nella magistratura ed in particolare della Procura di Napoli, che non è politicizzata. No, ma ho capito, cioè, però parlare al telefono... Lasciamo che sia la magistratura a individuare le responsabilità, a terminare l'inchiesta. No, ma questo siamo d'accordo tutti. Quindi può darsi che le cose si ridimensioneranno. Può darsi che le cose si ridimensioneranno. Certo che questa storia delle signorine e di chi procura le signorine è stata la vera rovina di Berlusconi. Mi dica la verità, Rotondi. Alla fine questa storia delle signorine e della... La rovina si vede alla fine, nel senso che lei ha detto sarà candidato o no, vediamo come finisce la legislatura, se salva il paese dalla crisi, se le cose si aggiustano, se rivince le elezioni, se le perde, come le perde, e poi le signorine chi se le ricorda più? Forse lui, spero anche loro, spero naturalmente per i successi di Berlusconi, che come diceva il presidente Cossiga, i soli successi che non si possono nascondere o insuccessi che non si possono nascondere sono quelli di letto, quindi speriamo. Ah, questa è buona, com'è questa qua, scusi? Diceva il presidente Cossiga che successi e insuccessi di letto sono i più importanti perché non si possono nascondere. Anche questo è vero. E con questa massima andiamo... La vicenda di cui si parla tanto è frizzante, è sfiziosa. Non dico che faccia bene all'immagine di Berlusconi, certo, per carità, ma secondo me sulla politica non inciderà proprio niente. Siamo qui, caro Parenzo, 800 24 00 24. Qual è la situazione lì? Situazione è che la piazza si riempie, arrivano un sacco di manifesti e striscioni. Ma di chi? Che cosa stanno tende, a fare? Ma la FIOM. Sentiamo Mentana, sentiamo Mentana un attimo. Per non aver accettato il matrimonio con un uomo anziano, avrà lo status di rifugiato politico. È un giornale pieno di fatti, è un giornale che inizia adesso con i titoli. È il lunedì nerissimo delle borse europee, il Piazza Affari perde il 4,8%, Francoforte oltre il 5%, ma sono tutte così, spread alle stelle, stavolta non ci sono alibi americani, Wall Street è chiusa per il Labor Day, da Berlino la Merkel sentenzia, Italia e Grecia ugualmente fragili. Di fronte a questo scenario, Tremonti, atteso per un convegno a Piacenza, fa frettolosamente rientro a Roma dopo aver incontrato Bossi e Calderoli a Milano. Forse cambiamenti in vista, una nuova manovra. Adesso l'imperativo però è uno, fare presto, possibilmente chiudere entro mercoledì. Per le opposizioni si può fare. Ma intanto Partito Democratico, Terzo Polo guardano avanti, si dicono disponibili a un governo di emergenza nazionale insieme al PDL. Questo mentre domani andrà in scena la protesta con lo sciopero generale da parte della CGIL. Noi non ci saremo, dicono gli altri sindacati. Ci saremo, dicono Bersani, Vendola, Di Pietro. Ecco tutti i passaggi di denaro nella vicenda Lavitola Tarantini, dall'inchiesta spuntano cifre a 5 zeri, soldi della presunta estorsione a Berlusconi che arrivano a Lavitola e passano solo in parte a Tarantini per pagare il suo silenzio, ipotizzano i PM. Intanto P4, Bisignani e Papa saranno processati col rito immediato a partire dal 6 ottobre. Filippo Penati è stato sospeso dal Partito Democratico, l'ha deciso la commissione di garanzia, mentre l'imprenditore di Caterina confermava le sue accuse. Vi mostreremo alcuni dei documenti che fanno pensare a un sistema sesto. Dopo 2 anni e mezzo di carcere, libera per buona condotta. Bene, bene, torniamo qui dopo questi titoli lunghissimi, Parenzo, della 7, del telegiornale della 7. Però avete sentito un buon riassunto della situazione politica della giornata. Ci sei o no? Ci sono, sto facendo delle piccole prove tecniche. Dobbiamo metterci lì, dove c'è il collegamento lì. Si riporta un po' di bandiere, striscioni. Sì, così. Pronto? Sì. Fai i soliti tuoi collegamenti. Ma i tuoi, ministro Rotondi, oggi lei ha detto che bisognerebbe addirittura pensare ad un mandato bis per Napolitano. Ma intanto vorrei sottolineare che nel centrodestra è tutta una scoperta del valore del Presidente della Repubblica come riferimento di una tenuta del sistema paese. Cioè, oggi chi comanda di più, chi conta di più, Napolitano o Berlusconi? Mi dica la verità. Napolitano. Conta, è che Berlusconi è il capo del governo. È il capo del governo e quindi per sua natura il capo del governo divide perché ha un'opposizione. Napolitano fa un altro mestiere, il capo dello Stato che per sua natura unisce, quindi il paragone non c'è. Però mi dica la verità, oggi chi tiene in mano le redini del paese? Napolitano? Ma il governo ce l'ha Berlusconi. Ho capito, questo formalmente. Insieme da Napolitano, sono complementari direi, mai come in questo momento. Qual era la ragione per cui ipotizzavo una rielezione a tempo di Napolitano? A parte che manca ancora un anno e mezzo. Io sono ministro del programma. Il programma è depositato al Viminale, chiunque lo può leggere. Ma ormai non conta più niente il programma, Rotondi. C'è scritto, sì, ma quello istituzionale lo rilanciamo. E c'è scritto che cambiamo i poteri del capo dello Stato. Allora? Lei l'ha detto, manca un anno e mezzo per approvare la riforma. Sì. Ci sta il tempo, ma siccome l'opposizione non collabora, mi sa che ce la proviamo da soli e quindi è esposta al rischio del referendum che in questa fase in Italia torna uno sport. Qui non si riesce a fare la manovra, lei pensa a fare addirittura una riforma istituzionale a maggioranza? Al contrario, la manovra è un'operazione complessa e sulla quale ci sono le difficoltà naturali di una manovra di emergenza come appunto che crollano, è un quadro diverso. La riforma istituzionale è una copia di un programma depositato su cui siamo d'accordo tutti, se la facciamo a maggioranza 3 mesi. Dunque, siccome non c'è il tempo, lei dice ho capito, ma bisogna cambiare la Costituzione. Siccome si modificano i poteri del capo dello Stato, non avrebbe senso cambiando la Costituzione eleggere un capo dello Stato che poi è delegittimato un anno dopo. Parenzo, hai capito qualcosa tu? Sì, ho capito, però è un ragionamento complicatissimo, la gente no, per strada. Il ragionamento è semplice: noi cambiamo i poteri del capo dello Stato e lo facciamo a cavallo della fine del mandato di Napolitano e dell'elezione del nuovo. Ma mi sembra una cosa un po' troppo ambiziosa, qui si naviga. Questa è una cosa scontata che faremo. Ma qui è una cosa, si naviga a vista, qui uno pensa alle grandi riforme. Si naviga a vista perché noi abbiamo detto che le riforme istituzionali le facciamo negli ultimi 6 mesi di legislatura, quindi faremo il dimezzamento dei parlamentari. Farete, sicuro, il dimezzamento dei parlamentari. E probabilmente in questo quadro non ha molto senso eleggere per via parlamentare un capo dello Stato. Rotondi, io apprezzo la sua, come lei dire, fa delle costruzioni di meravigliose dialettiche, un po' di carta, ma di lei sa benissimo che non succederà nulla di tutto questo, lei lo sa benissimo. Io sono convinto che lo faremo, poi ci sarà un referendum confermativo. Addirittura già sta pensando al referendum confermativo, figuriamoci se la sinistra votando contro questa soluzione poi non fa il referendum, lo fa. Ma ministro, qui non si farà nulla nemmeno all'inizio, cioè non ci sarà nemmeno, non passerà nulla, non è possibile perché che mai ci non dovrebbe passare. Ma perché, non ci sono le condizioni per fare una riforma di questo tipo? È tutto finito. Beh, insomma, io sono cristiano e non superstizioso, quindi non ho manco la risorsa di toccare ferro quando parlate così. No, ma lo diciamo con affetto. Come dicono gli inglesi? It's all finished, è tutto finito. Sì, vabbè, questa è una tua traduzione libera. Non avventuriamoci nell'inglese con l'inglese. Però ecco, non vedo cosa comincia, quindi auguriamo. Ah, quello che comincia. Chissà quello che comincia, questo non lo sapremo mai. Senta, ma Berlusconi, ma quando lei legge di questi soldi dati, insomma, Berlusconi è usato un po' come bancomat, un po' lei non se ne dispiace, mica perché vorrebbe essere al posto di queste persone beneficiate, per carità. Però un po' non si dispiace di questa immagine di un Presidente del Consiglio che viene un po' spremuto? È un'immagine che non corrisponde assolutamente alla realtà, nel senso che Berlusconi è una persona generosa che si occupa sempre degli amici, specie quando cadono in disgrazia, come lui stesso racconta, ma escludo che sia un bancomat ed escludo soprattutto che si faccia come dire, portare a una conclusione forzata, ecco. No, sulla ricattabilità o meno, su quello si può discutere, molti ne sono certi, altri dicono che invece non è ricattabile, questo è un altro discorso. Però, insomma, Rotondi, qui la famiglia Tarantini non mi sembra una famiglia di persone che erano molto agiate, e dopo lasciamo perdere la questione dei ricatti, perché uno deve prendere 20.000 euro al mese da Berlusconi? Ma guardi, sono vicende su cui non la mette un po' a disagio, non me la sento di commentarle finché non siano chiare. Non la mette un po' a disagio, rischiamo di commentare articoli di giornale. Certo che mi dispiace leggere di tutto questo, ma dispiacerà certamente di più al presidente Berlusconi, perché probabilmente o ci sono equivoci o ci sono persone che con lui hanno detto delle cose, tra loro altre, che ne so, io come voi leggo i giornali e commento, ecco, però non vorrei commentare cose che poi saranno diverse domani mattina. Però sul fatto che Berlusconi sia generoso, su questo non c'è dubbio, no? No, sulla generosità non c'è dubbio, così come magari lui concede spesso udienza, confidenza a tante persone, quindi alla fine si mitizzano i rapporti. Lui in realtà è un politico democratico che ha tantissime interlocuzioni e inevitabilmente può anche capitare che qualcuno ci marci, no? Come quando vanno da lui anche politici, vedete, quando escono da casa Berlusconi con tutte quelle telecamere intorno, che sembra sempre la sposa quando esce dalla chiesa con tutti che fanno foto. E quelli lì molte volte raccontano cose che non si sono dette dentro, nel senso che ognuno va lì e dice: Berlusconi mi ha detto, mi ha confidato, ma lo fanno per andare sui giornali, ecco, poi non è vero niente. Ma come, quindi, come un tipo di una tipologia come Berlusconi, appunto, come una persona molto generosa, con persone che vanno a casa, come la descriverebbe lei? Come, a chi assomiglia un po'? Ma Calderoli in questo ha detto una cosa giusta: Berlusconi è così, o te lo pigli per intero o no. Infatti c'è una parte dell'Italia che se lo prende così, e un'altra che... Cioè, o te lo pigli con Tarantini e la Vitola, oppure no. No, voglio dire, non darci perdere Tarantini e la Vitola, che magari saranno bravissime persone che erano tutte, usciranno indenni da questa vicenda. Non creiamo sempre mostri, che è una cattiva no pittura. Ma mostri lasciamo, no, che c'entrano siano, mostri lasciamo che siano i magistrati ad occuparsene. Berlusconi è una persona, senta, lei cos'ha, straordinaria, capace di cose. Ecco, voglio citare ancora una volta citi. Uno dei motti che più piaceva a Martinazzoli, ovviamente non lo riferiva a Berlusconi in caso. Lo ha ricordato oggi un giornalista: l'innocente vede una cosa impossibile, non sa che è impossibile e la fa. Ecco, si attaglia a quello che ha fatto Berlusconni. Berlusconni si alza una mattina e dice: siccome la DC tracolla e vincono i comunisti, faccio un partito e piglio il posto della... Com'è la massima però? L'innocente vede una cosa impossibile, nessuno gli dice che è impossibile, lui la fa. L'innocente. L'innocente significa l'ingenuo, dice. Ecco, l'ingenuo, la persona. Ma Berlusconi è una persona ingenua. Berlusconi è una persona ingenua e quindi rivoluzionaria. Naturalmente è rivoluzionario quando concepisce dei grandissimi disegni e li porta a termine, ma resta ingenuo quando inciampa magari in qualche trappoletta del palazzo, della vita quotidiana, in qualche gonnella, insomma, cose di queste. Ma lasci perdere, lì penso che non sia ingenuo, credo che abbia più esperienza di me e di lei, senz'altro. Su questo non c'è dubbio. Però signor Tarantini, sulle vicende di gonnella non altro sulla grande quantità, voglio dire. Come, scusi? Se non altro sulla grande quantità. Sulla grande quantità. Poi beh, noi come tutti i maschi italiani pensiamo di essere sempre i più bravi e quindi magari in una quantità molto minore, io essendo cattolico ridotta a una sola unità, pensiamo tutti di essere grandi direttori, capitani di squadra. Dunque anche Berlusconi anche grandi amatori. E anche Berlusconi qualche illusione se la fa da questo punto di vista. Beh, nel suo caso però bisogna riconoscere che tutte queste tre cose le ha fatte bene, quindi... La vita sessuale di Berlusconi, è attestata dalla grande quantità, nel senso che io solo ho conosciuto un mare di donne che mi hanno chiesto di presentargli Berlusconi, ecco, quindi voglio dire che piace. Ma anche che poi le hanno raccontato il dopo. Beh, il dopo no, non lo vengono a dire, però voglio dire, se la quantità è quella che raccontano giornali, cronisti, pettegoli di corte, magistrati, intercettatori, bisogna solo invidiarlo dal punto di vista della vitalità. Beh, con questo... i due punti provo invidia per Berlusconi, certo. Eh beh, certo, per la grande quantità. Beh, certo. Va bene, grazie, signor. A parte gli scherzi, voglio, no, scherzi, dire, una cosa, voglio dire una cosa molto seria. E qual è la cosa seria? Berlusconi sì. è stato attaccato come nessun altro. Vabbè, questo l'abbiamo già ripetuto mille volte. L'abbiamo ripetuto mille volte. Mille volte. La sua vera sfida oggi non sono le gonnelle, le chiacchiere. E che sono? E quali sono? Qui. È la crisi che investe questo paese. Vabbè, questo lo sappiamo, la crisi, eccetera. I mesi che ci separano, non dalle elezioni, ma dalla consapevolezza che ce l'abbiamo fatta, che è la nostra speranza. Lei è un inno all'ottimismo, Rotondi. Il nostro impegno no, è l'esame su cui ci cimentiamo. Eccoci, eccoci, sei pronto? Sei pronto, Parenzo? Ti devo salutare che devo fare le prove tecniche. Le prove tecniche, mamma mia. Vabbè. No, ma non essere giù, amico mio, ti abbraccio fortissimo a te e a tutto il pubblico della Zanzara. Va bene. E ci, buonasera. Tanto ti chiamo, ti chiamo più tardi, non ti preoccupare. Dopo come sei più tardi? Ti... Devo fare... No, ti vedo in collegamento con la 7, ma ti mando in onda per le cose banali che dirai sulla 7 in onda dopo. Sì, grazie. Per far capire la differenza tra la... Tra le istituzioni e il mio cuore, cioè, esatto, capito? Il cuore, la passione, cuore, eccetera. Da una parte il cuore, la passione, dall'altra il collegamento istituzionale, là davanti alla borsa, qui davanti a me ci sono questi qua che protestano oggi. Che vuole dire oggi? Lavoro, è tutto così. Vabbè, ho capito. Sarà così, vedrai, sarà così. E poi appena chiudi il collegamento, torniamo. Alle 9 a far sentire di nuovo la passione. Beh, prima non è che stai in collegamento per mezz'ora con la 7, no? E come no? Ma 21, che 21, ma quando 10. Mai? Quando no, vabbè, posso tornare a un certo punto e interrompo. Sì, no, ma hai ragione, è vero. Va bene, d'accordo. Ci sentiamo tra poco allora. Un abbraccio, ciao. Sì, ciao, Giorgio da Pesaro, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo intervenire per quanto riguarda sia l'affermazione di Renzi sulla sesta candidatura, mi pare, di Rosi Bindi, sia per quello che Alfano ha detto. Sì, su Berlusconi, sì. Che si ricalina. E poi secondo me si ricollega anche a quello che ha detto Rotondi e Calderoli, ovvero io vengo dalla Germania, sono qua dal 93 e mi pare che i politici siano veramente quasi tutti gli stessi, adesso fare nomi, D'Alema, Bossi, Casini, Fini, li fa meglio lei di me. In Germania, in Francia, altrove non succede tutto questo, uno perde le elezioni, va a casa, Kohl, Schröder sono andati a casa, Blair, Brown mi sa che non ci sono più, Aznar non c'è più, e ovunque così. E questo... come mi fa pensare che le cose possano cambiare, ci hanno portato loro tutti quanti in questo casino che c'è adesso e loro vorrebbero avere le stesse ricette per uscirne, non è credibile, per quanto Renzi e Alfano non mi piacciono per niente, almeno non c'erano 15 anni fa. Per cui, sì, però non è, per me questo qua è un falso problema, cioè, non è che per forza, l'importante sono le idee, non chi le propone. E soprattutto certo, l'età di chi le propone. Ci sono delle persone che io conosco che fanno politica da 4-5 anni solamente, che mi sembrano già vecchie adesso, cioè, ma molto più vecchi di persone che magari hanno 50, 55, 60 anni, 65, che propongono delle cose interessanti. È un finto problema questo qui. Certo, poi in molti casi la politica è diventata una professione, in altri paesi il cambio è abbastanza regolare, per carità, è molto più rapido. Anche però se bisogna dire che vedendo i dati dell'ingresso in Parlamento negli ultimi anni qualcosa è cambiato, ci sono molti più nuovi parlamentari rispetto a un tempo. Secondo lei non c'è un problema di tipo elettivo, nel senso che sapendo che le persone verranno comunque rielette le stesse, hanno più paura, è una mia opinione, hanno più timore a voler proporre veramente qualcosa di, vogliamo dire, progressista, di cambiamento. Ma dipende qual è il cambiamento, che vuol dire? Cioè, non è lì, perché si scontra con le proteste di tutti quanti, le proteste sue personali per quanto riguarda la tassazione dei redditi alti, come le proteste... Però francamente non ho capito qual è il suo ragionamento, francamente è un po' Italia, contorto. Insomma. In Italia protestano tutti quanti. Non c'è dubbio, questo è vero. Quando lei era in ferie, sì, ha chiamato un'ascoltatrice, ha fatto una metafora, diciamo, molto bella. È come, sì, quando brucia una casa, tutti dovrebbero partecipare a spegnerla, ma ognuno in qualche modo si tira indietro, perché ha l'allergia al fumo, l'altro perché ha già partecipato la volta prima a spegnere il fuoco, l'altro perché si è fatto male al ginocchio, e questo metaforicamente. è proprio così. Io stesso non guadagno molto, però se bisogna partecipare tutti quanti, partecipiamo tutti quanti. Invece in Italia è proprio che non si può toccare nulla. No, questo è vero, questo non c'è dubbio, è il paese delle caste, come diciamo da tempo, come noi nel nostro piccolo proprio, diciamo da tempo, che la vera casta, cioè poi tutti quanti ce la pigliamo alla casta dei politici, però l'Italia è piena di caste. Pensi all'inferno che è scoppiato per la questione delle feste, no? Delle feste nazionali che erano state soppresse, sì, poi sono tornate. Non si può toccare, lì protestano i commercianti perché pensano di perdere dei soldi per il fatto che non ci sono più le feste, e se tutto di questo protesta. Pensa che il fatto che un politico è lì da 20 anni è sicuramente in collegamento, non so di che tipo. Ma no, guardi, perché no, non credo che sia questo. Non credo che ci sia un collegamento. Grazie, Franco da Milano, buonasera. Franco? Sì, pronto? Buonasera, dica. Allora, io volevo fare una piccola protesta per le dichiarazioni del ministro Calderoli. Beh, sì, protesta la può fare, per carità, però... A ripetizione i politici di destra e di sinistra si scagliano contro la nautica e le barche, non sapendo che le barche per l'Italia sono una grandissima ricchezza. L'Italia è il primo produttore mondiale di barche sopra i 24 metri. Sì. E lui parlava di Porto Cervo, in questa settimana c'era 1 miliardo di valore di barche venute dall'estero per partecipare a una regata. Ed è tutto valore aggiunto che l'Italia produce. Quando si scaglia contro la nautica si fa un errore molto grosso. Scusi un attimo, signor Franco, lei è persona interessata a questi discorsi in quanto? Io sono il direttore della rivista Barche. Ah, ecco. Però voglio dire, non è che adesso non esageriamo, non è che Calderoli se l'è presa con tutto il mondo della nautica, o comunque non è che voleva. Era semplicemente, secondo me, una stupidaggine. Ha espresso in maniera colorita e folcloristica, come al solito, la sua opinione sulla questione degli evasori fiscali, dicendo: mi viene una rabbia. Ma facciamo risentire Calderoli. E non mi ricordo com'è che si chiamava. La orchiciclosi. Però io di sapere il numero di barche che ci sono in porto a Porto Cervo o da qualunque altra parte e che risultano tutte di nulle tenenti, io ho l'orchiciclosi, ho le balle che mi girano ogni volta che vedo quelle cose lì. L'orchiciclosi di Calderoli non è che ce l'aveva col mondo della nautica, caro Franco, ce l'ha con... io l'ho anche detto prima, cioè non è che ovunque c'è uno yacht c'è l'evasione fiscale, insomma. Ma ovunque c'è uno yacht c'è della ricchezza che qualcuno lo sappiamo, certo. Non è che il mondo della nautica sia un mondo che fa perdere dei soldi all'Italia, non è che, ripeto, che dietro ogni yacht si annidi un nemico dell'Italia. Poi è evidente che il mondo della nautica, come tanti altri mondi, se producono e c'è qualcuno che vende, fanno girare i soldi, sono qualcosa di positivo per l'economia, ma nessuno lo metteva in dubbio questo, Franco, non so. Posto barca in un porto turistico produce 9 posti di lavoro nell'indotto. E questa è una cosa che deve essere valorizzata, mentre i politici, se si ricorda, il ministro Ferrero, quando era al governo con Prodi, fece un manifesto con Rifondazione Comunista in cui scrisse: anche i ricchi devono piangere. Sì, me lo ricordo. Invece, noi dobbiamo dire: anche i poveri devono ridere, non anche i ricchi devono piangere. Sì, no, Franco, ma io condivido con lei, cioè che sono d'accordo. Detto questo, mi sembra che anche il mondo della nautica viene adesso toccato da questa cosa che ha detto Calderoli sul fatto che gli viene quello che gli viene, non lo so ripetere, la orchiciclosi per vedendo uno yacht. Grazie, Alberto, Reggio Emilia. Sì, pronto. Signor Alberto, dica. Pronto, sì. Alberto, se lei non parla è difficile andare avanti, eh? Ecco, io sono qua che sto parlando, buonasera. Buonasera, dica. Dunque, io volevo parlare... sono uno di quelli che vanno in manifestazione e volevo difendere le motivazioni della CGIL. Sì, adesso senza farla troppo lunga ci spieghi perché va domani, partecipa alla sciopero generale, così... Dunque, senza farla troppo lunga è perché noi pensiamo che questa finanziaria senza sia farci il pippone a livello economico. Sì, attaccato al pippone. Non c'entri niente l'articolo 8 che modifica pesantemente... i diritti dei lavoratori vengono messi a rischio. Bene, tutto qua? Tutto qua, e non mi sembra poco. No, per carità, questo è quello che ci voleva dire? No, volevo dire quello, sì. E volendo posso anche spiegare un pochino più nel dettaglio. No, per carità, no, non capisco, perché volevo anche dire, per criticare chi critica la CGIL che si opera. Prego, dica. Perché l'unico modo per cambiare le cose, sì, è scioperare. Nella storia dell'Italia, certo, è sempre stata quella. Fin dagli anni 70, grande partecipazione in piazza, sì, ci sono stati grandi conquiste per i lavoratori, un pochino, sì, più di dignità e anche un pochino più di ricchezza per tutti. Bene. Se si continua così ad affossare i più deboli, a perdere potere d'acquisto per le categorie più deboli, anche l'economia ne risente. Bene. Grazie signor Alberto, grazie di questa visione, di questa fotografia della realtà attraverso i suoi occhi di militante iscritto alla CGIL. Secondo Della Valle serve un rimpasto con 4-5 tecnici, per fare questo dice ci vogliono 24 ore, ma evidentemente il signor Della Valle non conosce bene i tempi della politica italiana. Dove andiamo? Alessandro da Roma, buonasera. Buonasera. Volevo solamente commentare quanto avevate detto all'inizio anche con riferimento alla questione degli yacht. Sì. Se da un lato effettivamente il commento di Candeoli che si sveglia così improvvisamente sulla questione degli evasori fiscali che hanno le barche è giusto, devo dire che però mi è venuto immediatamente in mente che in un paese normale o comunque in un paese più evoluto di quello che siamo noi da questo punto di vista, se si fa un'inchiesta e si va in un pontile a chiedere se la barca è del signore che sta lì davanti, eccetera, probabilmente una percentuale più elevata di quelli che attualmente non rispondono risponderebbe sì, è mia, farebbe una cosa assolutamente normale. Invece il reddito in questo paese è spaventosamente una cosa riservata. Sì, però Alessandro, non è un obbligo rispondere a una persona che ti passa davanti non è un obbligo, chiede scusi, è suo lo yacht. Io posso anche dire, ma chi è lei per domandarmi una cosa del genere? No, ma non è un obbligo, un'inchiesta giornalistica non rappresenta gli obblighi, è un'opportunità. È un fatto ed è una è un'indicazione di costume il fatto che tutte le questioni che attengono ai redditi e ai soldi siano considerate sempre straordinariamente riservate in questo paese. Beh, insomma, c'è un motivo, non è che ci può essere la trasparenza totale per tutto, perché altrimenti la quantità di ricchezza che ognuno di noi possiede, piccolo o grande che sia, non è necessariamente. Cioè, non sta scritto da nessuna parte che debba essere divulgata. No, no, è vero, però ritengo che se la mia è un'opinione, ovviamente, che non ho verificato di persona, ma ho il forte sospetto, sì, che in molti altri paesi, forse più prevalentemente del nord Europa, probabilmente, sì, se si fa un'indagine analoga, una percentuale più elevata di persone direbbe tranquillamente sì, sì, questa barca è mia. Può darsi. Invece di dire quasi tutti, o addirittura tutti, non negare l'evidenza. Può darsi, però non è un obbligo rispondere. Ripeto, la trasparenza totale del patrimonio immobiliare di ciascuno di noi, io ho molti dubbi su questo. Le frasi del giorno. Beh, sicuramente PID in tutta Italia è un atto di generosità, il ministro Romano. Quello che stiamo facendo in questo momento è un atto di generosità. Stiamo procedendo alla organizzazione territoriale del nostro partito, abbiamo una classe dirigente che oggi è diffusa in tutto il territorio nazionale, da Canicattì fino a Bergamo. Vorrei scovarli gli iscritti al PID di Bergamo. Poi c'è Calderoli col Viagra. Io penso di togliere i soldi alle vedove. Quando trovo, e qui ragazzi miei, è colpa veramente del Viagra, porca bestia, quello da 80 anni che si sposa la diciottenne extracomunitaria per le ultime ore di gioia della sua vita. Il giorno che la sposa, questa diventa cittadina italiana, ma se quella si sposa una diciottenne, io quello gli pago la pensione dai 18 ai 90 anni e non ha contribuito di un euro, tranne che per le ultime ore di felicità del nonnetto. Giuseppe dalla provincia di Firenze, buonasera. Buonasera. Dica. Torno dalle ferie e parlo subito con lei. Prego. Mentre sono in strada. Volevo parlare un attimo della riforma economica che sta proponendo il governo. Sì. Si è capito chiaramente, l'hanno capito tutti, anche perché lo chiede l'Europa, che il governo ha bisogno di, che l'Italia ha bisogno di recuperare soldi. Ha cercato prima di recuperarli con il reddito da 90.000, 150.000 in su, dopodiché è stato fallimento e l'ha abbandonato. Ha cercato di colpire i pensionati facendo andare un po' più tardi per recuperare dei soldi, anche questo è fallito. Quanti erano i soldi che recuperava? 1,5 miliardi di euro con i pensionati, 3,5 miliardi, 3,7 miliardi lordi da tassare, al netto delle tasse, cioè senza le tasse, da tutta l'operazione, allora... 90-150 mila. Io mi chiedo come fa a non venire in mente al governo un provvedimento che piacerebbe a tutti gli italiani, dove tutti gli italiani godrebbero. E quale il sarebbe? Governo, questo nostro governo ha regalato 38 miliardi di euro a tutti gli scudati, perché hanno portato in Italia, cioè non hanno portato neanche in Italia, ma hanno avuto protetti 105 miliardi. E dunque che cosa bisognerebbe fare? Evasi. Semplicemente bisognerebbe proporre a loro di pagare una tassa di solidarietà. Ho capito, Giuseppe, è la stessa proposta che ha fatto il Partito Democratico. Esatto, ma io mi chiedo come fa a non venire in mente al governo e come mai nessuno lo dice. Cioè noi stiamo adesso perché a ci sono anche problemi di carattere tecnico, poi ripeto, i problemi di carattere tecnico si eliminano tutti, io ci ho detto parecchi e gli indico qual è la via. Siccome uno che ha scudato 2 miliardi di euro, dico una cifra, io ho scudato 1 miliardo di euro, se a me la finanza mi scopre quel 1 miliardo di euro domani, mi chiede e dice tu questo l'hai evaso, devi pagare le tasse, io per non pagare le tasse devo dimostrare alla finanza che ho scudato quel 1 miliardo di euro, allora la finanza vedendo quel 1 miliardo scudato dice mi dispiace tanto non farti pagare le tasse, ti saluto, sei a posto con quel miliardo. Ma l'utente, quello che ha avuto i soldi scudati, deve poterlo dimostrare, lo dimostra semplicemente tramite i passaggi bancari. Quindi basta che la finanza in Italia, che è super efficiente e sa fare benissimo il suo dovere e lo sta dimostrando ampiamente, basterebbe dargli mano libera alla finanza e chiedere a loro, ma voi li sapete trovare questi 105 miliardi? La finanza direbbe subito, io te li trovo subito se ho la possibilità di aprire le... In questo modo ci sarebbero... Vabbè, ho capito, Giuseppe, per adesso non è sul tappeto questa cosa qui, sì, di ritassare, io di ritassare dico, gli scudati. Io voglio sentire prima la sua opinione o la tua opinione. Ma io l'ho già detta più volte, secondo me c'è stato un patto, anche se può essere considerato scellerato e la tassazione è troppo bassa, tra il governo, lo Stato, diciamo, italiano e quelli che chiamiamo per comodità scudati, e questo patto va mantenuto, punto. Poi, dopodiché si può pensare a mille altre cose, per esempio adesso leggo che si vuole recuperare qualcosa dal condono del 2002, perché moltissimi contribuenti, chiamiamoli così, moltissime persone che avevano aderito a questo condono hanno pagato le prime rate e poi non hanno più pagato, e là si possono recuperare pare tanti soldi. Grazie. Igor da Napoli, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo fare una brevissima considerazione che a me, nell'apparire paradossale, non appare del tutto inverosimile. Sarà che questo teatrino legato alla manovra finanziaria sia orchestrato, tra virgolette, ad arte per favorire la speculazione? Ma che ne so, Igor, non lo so, francamente mi prima pare... di andare via da questo paese di M, come è stato definito, ci alza su qualche lira su... speculando contro il debito pubblico italiano, magari. Non lo so io, chi farebbe una cosa di questo tipo? Chi gestisce, chi tira le fila della politica, voglio dire. Mi sembra un comportamento complessivo totalmente non rispondente alle esigenze del paese e che non trova... alcuna spiegazione, non trova alcuna spiegazione, e magari una spiegazione, ripeto, paradossale, mi rendo conto che sia paradossale, potrebbe essere una via, c'è sotto qualcuno che ci marcia su questo comportamento che rischia di portarci via su, al fallimento. Bene, grazie. Allora, sempre il signor Della Valle, il patron della Toz, dice alla festa del Partito Democratico a Pesaro che non si capisce attraverso quale metodo, in realtà bisognerebbe scegliere per il 2013 100-200 personalità della società civile cui potremo delegare a rappresentarci in modo degno nel 2013. Se non ci pensiamo oggi, non lo facciamo dopo, non si capisce attraverso quale criterio, però una sorta di gli eletti, cioè la creme della società, diciamo così, scelta non si sa da chi, non si sa come, che ci deve guidare nel 2013. Va bene. Patrizio ci chiama da Padova, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica. Senta, io ho sentito prima un pezzettino dell'intervento del ministro Rotondi e mi è venuta in mente una cosa. Credo che sia sempre più evidente che in Italia è mancata la rivoluzione francese. Cioè, scusi, beh, cosa è mancata? È mancata la rivoluzione francese, cioè un evento traumatico che faccia piazza pulita di determinate incrostazioni e di un certo modo di intendere la politica. Non si possono fare ragionamenti come quelli che abbiamo sentito di fronte ad una situazione nella quale se la BCE smette di comprare i titoli italiani noi siamo al default. Sono quattro manovre che non sono state portate a termine perché ogni volta c'è qualche cosa che bisogna cambiare. Dopo l'ennesimo proclama contro gli evasori fiscali che sappiamo dove va a finire. Ma pare che tra l'altro che da quello che leggo dalle agenzie c'è stato un ultimo tentativo di Berlusconi e di Tremonti, così riporta l'Ansa, di convincere Bossi ad agire sulle pensioni. L'obiettivo era quello, di un innalzamento graduale dell'età pensionabile delle donne dal 2012, non dal 2016, e un intervento anche sulle pensioni di anzianità, giocando un po' sul cumulo degli anni, eccetera, eccetera. Tentativo pare fallito. Questo la dice lunga sul tipo di elettorato, per esempio, cui si rivolge la Lega. Vabbè, ma questi sono altri discorsi. Che stava dicendo? No, stavo dicendo che siamo in una situazione nella quale, ancora una volta, si cerca di strizzare il limone, no, per tirar fuori più soldi. Ora, siamo tutti d'accordo sul fatto che gli evasori debbano pagare le tasse e che non debbano pagarle sempre i soliti, ma bisogna ridurre la spesa. Cioè, se a casa mia a un certo punto mancano i soldi per arrivare alla fine del mese, è inutile che io prenda a calci i miei figli perché vadano a lavorare o mia moglie perché faccia qualche cosa d'altro, eccetera. Bisogna smetterla di buttare via i soldi. Bisogna trovare la maniera di ridurre le spese, perché altrimenti qua non se ne va fuori. E siamo, io credo, veramente in una situazione nella quale la rivoluzione francese, che in Italia non c'è stata, succederà per forza, che si chiami adesso BCE. La rivoluzione francese, speriamo di no. Ma no, ma capisce, lei immagini per esempio che la Germania debba accettare di avere un ruolo più attivo, come le viene chiesto, nel finanziare il debito dei paesi in difficoltà come l'Italia, la Grecia, eccetera. A un bel momento nascerà la necessità di fare quello che ha chiesto Trichet. Cioè, se io ci metto i soldi voglio anche comandare. Non è detto che sia una cosa del tutto negativa. La ringrazio, Patrizio. Il formigoni scatenato di questa mattina da Alessandro Milan. Una manovra da socialismo reale, da regime, da socialismo reale. Sentiamo. Mi sembra che qui vengano messe in atto tutte le tassazioni peggiori, tutte le misure, le odiosità peggiori che fanno parte di un regime da socialismo reale o comunque da socialismo anni 2000. Francamente è una manovra che mette le mani nelle tasche dei cittadini e soprattutto dei cittadini più deboli. Poi arrabbiatissimo con alcuni articoli del giornale che se ne hanno prese con le spese delle regioni, che non si devono lamentare, devono diminuire le proprietà, devono dismettere gioielli come il Pirellone, eccetera, eccetera. Articoli del giornale ignoranti e stupidi, sentiamo. Questi due articoli del giornale a cui lei si riferisce sono un concentrato di ignoranza e di stupidità. Ignoranza e stupidità che hanno anche delle firme, diciamo, il direttore dell'illustre giornale che si chiama Alessandro Sallusti, non nuovo a cadute di errori di questo tipo, pensi che consigliò i milanesi di votare Lassini due giorni prima che Berlusconi lo mettesse fuori dalla lista, quindi neanche, cerca di essere un interprete dell'ordine, non riesce neanche a farlo. Comunque Alessandro Sallusti oggi e ieri e oggi Paolo Bracalini. Scatenato contro il giornale, stupidate da tema di terza media, perché parlavano in questi articoli della necessità di vendere proprietà della regione Lombardia, e Formigoni diceva invece avere immobili di proprietà è più conveniente rispetto all'affitto. È arrabbiatissimo. Guardi, sono arrabbiatissimo. Ho letto con sgranando gli occhi questi due articoli di un giornale che pretenderebbe di essere un giornale di riferimento nel panorama italiano, mentre infila una sequela tale di stupidate da far arrossire, non dico chi si presenta all'esame di giornalista, ma anche chi fa il temino per la licenza di terza media. Il giornale peggio della terza media, vabbè. E poi contro un altro articolista del giornale, Paolo Bracalini. Bracalini, questo genio dell'economia, consigliava a noi di vendere alcuni edifici, per esempio consigliava a me di vendere il grattacielo Pirelli. Sì. Ora, a parte il fatto che noi abbiamo comprato le nostre sedi proprio per risparmiare, ma l'illustre Bracalini non sa che per le leggi dello Stato che lui vuol difendere, se anche per assurdità e per ignoranza mia volta, che invece non ho, vendessi l'edificio Pirelli, poi non potrei utilizzare quei fondi per pagare i treni. Il mio problema è che mi tagliano i contributi sui treni, che possono essere soltanto fondi trasferiti dallo Stato. Mi sembra dell'arrivo della piazza qui davanti ancora la borsa, perché noi dovremmo dire a questi signori che la crisi non la paghiamo, è una crisi loro che se la pagano loro. Ma chi allora, sta qua non ha grosse responsabilità. No, c'ha grosse responsabilità. Di più la politica, non gli speculatori. Ma ormai la politica cammina a braccetto con gli speculatori, lo vediamo tutti i giorni sulle cronache nazionali. Grazie. Senti, David, fermiamoci un attimo, dopo sentiremo altre storie che arrivano lì dalla piazza, ma voglio sentire come risponde il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini a questo sciopero che inizia stasera, in realtà ci sarà per intero domani, e che lei ha criticato, ha parlato di sciopero inefficace che non fa il bene del paese, uno sciopero sbagliato. Cosa risponde a questi lavoratori? Che deve rispondere ai lavoratori? Questi lavoratori, perché vabbè, sono persone che ci mettono del loro in prima persona e pagano. Enzo da Torino, buonasera. Enzo? Sì, pronto. Dica. Dunque, voglio fare una breve appendice a quello che ha detto l'ascoltatore precedente circa la Francia e la rivoluzione francese. Beh, non voglio fare demagogia, ma quando la Francia di quell'epoca, non dimentichiamo, non c'erano le garanzie e i sistemi democratici e le regole democratiche, ma facendo i dovuti raffronti, un sistema politico, cioè uno Stato, cioè la gente, fu costretta a un bel momento a rivoltarsi in maniera violenta perché ormai la deriva del potere di quel momento, cioè pensiamo a Versailles, alle feste, ai lussi, agli nastrini, ai minuetti che il re continuava a organizzare. Sì, però no, Enzo, non facciamo paragoni assurdi, no, ridicoli, no, ho detto senza facciamo senso, i debiti. Ho capito, no, ma non c'è nemmeno da fare un paragone, non siamo no, mica nel periodo dell'anzian regime qua. Arriva al punto di saturazione. Ma quale regime? Non c'è nessun regime qua. Quello era un regime, sto dicendo quello era un regime. Qui siamo in un quadro di Stato, di regole democratiche, tuttavia facendo i debiti raffronti dobbiamo stare attenti, perché poi c'è un punto di rottura e c'è stato storicamente sempre, fino a tempi recenti, la rivoluzione russa e quant'altro. Ma ridaglie con le rivoluzioni. Vabbè, ma guardi che non siamo troppo indietro nel tempo. Ma va. Cioè, ma va, lei minimizza sempre tutto. Ma non è minimizza. Questo è, bisogna stare attenti, perché poi ma la quale storia rivoluzione? Va guardata. Di quale rivoluzione sta parlando? Cioè, no, io non sto parlando di rivoluzione né di domani mattina, sto dicendo che quando la gente è condotta a punti di estremo disagio, poi ci sono risposte anche violente, che non bisogna meravigliarsi. Ripeto, la storia lo ha insegnato in momenti Va bene, diversi. non mi sembra questo il momento. Perfetto. Grazie. No, guardi, non ho finito. Ho capito, non ha finito, però devo dare la linea a Matteo da Milano. Ho capito, una parola sola per il ministro Rotondi, che mi spiace dica, che non è più in linea. Dica qualcosa, Rotondi. Il ministro Rotondi, che è un ministro, cioè un servitore, si deve ricordare che essendo lui molto vicino alla gente, al territorio, ecco, quando l'anno scorso ha avuto modo di testare la sua popolarità presso la gente, si è candidato, lui avellinese, con altri 20 avellinesi, con una lista pseudo-democristiana, devo dire, a Torino. Quindi mi dica cosa ci sta a fare un gruppo di avellinesi, quello più a nord era nato a Sora. Sì. Candidato in Piemonte alle regionali Sono del Piemonte. Le bizzarrie della politica italiana. Grazie. Pino da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Tino. Dica. Ma niente, io Tino o Pino? Non ho capito. Tino con la T. Tino, bene. Buonasera. No, io invece sento veramente la nostalgia di Martinazzoli e di personaggi come Rotondi. Sì, però scusi, adesso non è che con una parlantina forbita. Martinazzoli con delle strategie. Qui strategia. Io inorridisco quando sento dire che Bossi è un politico di razza, è un animale di razza forse, ma non un politico. per quello che dice, per come lo dice, per l'espressione che dice, qualsiasi idea abbia diventa un animale di razza. Bene Tino, voglio dare la linea a Carlo da Milano però. Caro Carlo, pronto? Dica. Sì? Ci sono? Sì. Ah, chi la dura la vince. Buonasera a tutti. Eccoci. Ma io ho chiamato all'inizio e non voglio neanche, vado subito al punto perché chiamavo meglio, sì, per una questione legata alla manovra, tutte le cose che sono dette in ambito fiscale, dell'azione e sì, quant'altro per il discorso dei redditi. Mi piacerebbe, proprio per dare una svolta sì, a questo diamo una svolta facendo che cosa? Non pubblicando quanto guadagna la gente. Ma proprio per nome e cognome dire quanto Carlo Cruciani o qualcun altro paga di tasse. Addirittura differenzierei un po' come con le carte di credito i colori dei codici fiscali. Sa, presente le tesserine, quelle regionali, tanto a dare una platinum card a chi paga una certa cifra. Io non ho capito lei che cosa vorrebbe fare, scusi Carlo. Vorrei instaurare un giro virtuoso dove, dando e confidando sull'etica e su dei valori che sono fondamentali. Ma non ho capito proprio il primo passo che lei vuole fare, pubblicare che cosa? Non ho capito pubblicare quanto cosa. Quanto io pago di tasse. Ho capito, ma è più o meno la stessa cosa del reddito, non è molto diverso. Beh, non direi perché poi no? se lei pubblica i redditi, poi conseguentemente ci sono le tasse, insomma. È vero, è verissimo. E allora di che stiamo parlando? Però ci sono redditi e redditi, ci sono redditi di società, per esempio, che tutti gli anni vanno in pari e magari non hanno neanche un dipendente. Ci sono le persone come me che sono dei dipendenti che lavorano, magari arrotondano in maniera del tutto lecita e in maniera del tutto diciamo, non è che quello regolare viene e pagano delle tasse. Ho capito, ma perché questo? Perché chi paga le tasse e lo fa per avere dei servizi, lo fa anche per volersi circondare e vivere in un paese dignitoso. E allora? Ora, chi non paga le tasse ed è contro questi sani principi che dovrebbero far bene a bene, tutta la società, a un certo punto la società stessa lo etichetterà, lo allontanerà. Lei si figuri se un io attimo vado solo, a no? Un attimo solo, carne, un attimo solo. Un attimo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Volevamo sapere se c'è una novità sulla situazione di Cartier. No, nessuna novità, non è stata trovata. Niente? No, niente, ancora. Ma si fanno ipotesi? No, ipotesi di cosa? No, ipotesi, non so, pericolo cacciatore. No, nessuna ipotesi. Ma dove può essere? Siamo riusciti a recuperare 8 cani a cui abbiamo restituito il padrone. E questo è importante, questo è importante. Non tutto il male viene per nuocere. Cioè la mobilitazione è servita a qualcosa, lei sta dicendo. Sì. Senta, ma che ipotesi si fa? Cioè, come può essere sparita così? No, spariscono i cani di solito, no? Non c'è nessuna ipotesi, scappata dal cancello. Per cui niente di particolarmente misterioso, no, ecco. No, ma non è che pensate di mettere una ricompensa, no? Beh, se qualcuno la trova si farà qualcosa, comunque. Che ne so, sa, quelle cose che si, no, i manifesti, no, chi la trova... La saluto. Grazie. Grazie, buona serata, buona serata. Aggiornamenti in tempo reale con la vicenda Cartier. Giuliano da Roma, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, grazie della possibilità di intervento. Dica. E velocemente su quanto diceva Calderoli circa anziani che sposano giovani fanciulle, le quali poi un domani potrebbero avere reversibilità di Non mi pare un problema, insomma, epocale. Sì, sì, no, neanche per me. Ma diciamo anche una cosa, premesso che chiunque in pieno possesso di facoltà mentale può sposare chi vuole. Benissimo. È vero che queste fanciulle un domani avranno una reversibilità, un benefit per tutta la vita, ma perché l'onorevole Calderoli e i suoi colleghi non hanno forse un benefit più spesso immeritato di quanto noi non pensiamo? Semplicemente questo. Bene, grazie. Grazie a lei. Ha già detto tutto lei con questo intervento. Attilio da Vicenza, buonasera. Sì, buonasera. Signor Attilio, le lascio concludere la trasmissione, mi faccia godere. Volevo solo fare una considerazione. Io faccio un imprenditore, ho 200 dipendenti, sì, pago un sacco di milioni di euro di tasse, ma tanti, non ne vado un centesimo. Sì. Mi sono preso uno sfizio solo nella vita di comprarmi una barca. Ma è possibile che io mi debba sentire come un evasore fiscale? Primo questo, e secondo possibile... Ho avuto l'agenzia delle entrate, ho controllato tutti i bilanci l'altro giorno e ho preso 5.000 euro di multa per delle scemenze. Mi è venuta un anno fa l'agenzia delle dogane e non è riuscita a fare niente. ogni giorno un'ispezione in qualcosa, metto da parte due soldini per prendermi uno sfizio, lavorando come un somaro, sì, e mi sento un evasore fiscale, solo perché ho una barca. Ma veramente viene la tentazione di dire, ma prendo, allungo un pochino, e la prossima fabbrica che ho evitato di costruire in Serbia perché ci tenevo a lasciarla in Italia, la porto in Serbia. Questa è l'unica mia considerazione che volevo fare. Caro Attilio, grazie, l'abbraccio forte. Ci sentiamo domani 18:30, cari amici della Zanzara. Cruciale vaffanculo, però non sei cruciale. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Radio 24. La passione si sente.